GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Debutta il nuovo Consiglio regionale, l'Assemblea oggi elegge il Presidente. 25 aprile, polemiche sul numero chiuso per la cerimonia alla Risiera di Trieste, ampi e sindacati contro il Comune che replica questione di sicurezza. Giovane nordafricano picchiato dalle forze dell'ordine al CPR di Gradisca, le immagini in un video, il prefetto, è stata la reazione a un tentativo di rivolta. La fuga dall'inferno del Sudan, in salvo Gabriele Simeoni, giovane medico udinese di Emergency. Adunata nazionale degli alpini a Udine, nel piano straordinario ci sono anche 50 posti in più negli ospedali. A lezione di lobbying parte a Gorizia un corso organizzato dall'Università di Udine. Pordenone, i premi San Marco e i riconoscimenti della città nel nome del patrono. Musica al via al concorso musicale internazionale di Palmanova. A Trieste Roberto Bolle concede il bis. Calcio, Italia valanga sul Messico a Gradisca nel torneo delle nazioni. La pallanuoto Trieste femminile debutta a Roma nelle semifinali scudetto. Mercoledì 26 aprile, sono le 7:19 minuti. Buongiorno da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Subito, come di consueto, uno sguardo alla situazione del tempo. Sul Friuli Venezia Giulia abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 11 gradi e mezzo, a Udine 5 gradi, a Gorizia e Pordenone 4. Nell'area montana a Tolmezzo 1 grado e 5 decimi, a Tarvisio 0, a Sappada meno 2. Sul Piancavallo 3 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 3 gradi, ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero, sull'Ussari meno 1,5, a Grado 10 gradi e 5 decimi, a Lignano 9. E le previsioni per oggi: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso e temperature minime fresche in pianura. Nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma in montagna non è esclusa locale variabilità. Soffieranno venti di brezza. È il giorno in cui si apre ufficialmente la 13ª legislatura del Consiglio regionale, con i nomi usciti dalle urne dal voto del 2 e 3 aprile. Alle 11 questa mattina, dunque, la seduta inaugurale nella quale saranno assegnati gli incarichi di vertice della nuova Assemblea legislativa. Sotto la presidenza provvisoria di Laura Fasiolo, nelle vesti di consigliere anziano, e con i consiglieri più giovani nel ruolo di segretari, Simone Polesello e Giulia Massolino, i neoconsiglieri regionali giureranno e poi voteranno per eleggere il nuovo presidente dell'Assemblea. Nella maggioranza c'è già l'accordo sul nome del leghista Bordin, i vice saranno Mazzolini e Russo. Intanto, tra gli assessori nominati dal presidente della regione Fedriga, sono ufficiali e già formalizzate le dimissioni di Barbara Zilli della Lega, mentre Stefano Zannier dovrebbe presentarle dopo la seduta di apertura. A loro subentreranno il primo dei non eletti nella circoscrizione, rispettivamente Emanuele Ferrari e Mauro Tavella. Per la surroga si seguirà l'iter previsto dal regolamento d'aula. Per ora i tre assessori di Fratelli d'Italia, Cristina Amirante, Mario Anzile e Fabio Scocimarro, rimangono in carica. In un nuovo incontro fra il gruppo e il vertice regionale del partito, con il segretario Walter Rizzetto, si stabilirà se gli assessori dovranno lasciare il seggio in consiglio o potranno rimanere in carica. Nel frattempo è aspra la polemica politica sulle celebrazioni del 25 aprile. Ieri a Trieste le nuove disposizioni sulla sicurezza, peraltro attese da anni ma in questo caso messe in pratica senza essere comunicate, hanno escluso dalla cerimonia alla Risiera numerose persone. Tensioni anche per il cordone di polizia disposto per prevenire un corteo non autorizzato. Sentiamo. È stata partecipata ma a numero chiuso la cerimonia del 25 aprile alla Risiera di San Sabba di Trieste, il campo nazista di detenzione con forno crematorio, luogo di smistamento, prigionia e uccisione di ebrei e oppositori politici. In apertura il discorso del sindaco Roberto Di Piazza. Il 25 aprile del 1945, con la liberazione del paese dal governo fascista e dall'occupazione nazista, segnò la fine del conflitto, anche se la nostra Trieste ha dovuto attendere più tempo per tornare a avere un proprio equilibrio istituzionale. Tra gli oratori il vicepresidente dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, Emilio Ricci. Dobbiamo pensare che oggi l'antifascismo è fondamentalmente, strutturalmente, iconicamente la difesa della Costituzione. Ha parlato tra gli altri il nuovo vescovo di Trieste, Enrico Trevisi. Nella mia prima omelia in riferimento a questa tragedia qui consumata, a tutte le immani violenze delle guerre e delle dittature, ho gridato mai più, mai più. La celebrazione è stata accompagnata da tensioni e polemiche. Già prima dell'inizio è stato impedito l'ingresso a molti per il raggiungimento della capienza massima di 600 persone indicata dal piano di sicurezza appena messo a punto a seguito della realizzazione delle uscite di emergenza, ha spiegato il sindaco di Piazza. Lo stesso di Piazza ha mediato, permettendo l'entrata a un gruppo di cittadini rimasti fuori, ma molti altri ancora non sono riusciti ad accedere nonostante le vibranti proteste. Per CGIL e ANPI è stato un grave affronto. Michele Piga, segretario della CGIL di Trieste. Per tantissimi anni è stato lasciato libero l'accesso. C'erano tantissimi spazi vuoti all'interno. Non si è capito dello stravolgimento di un'organizzazione, non è nemmeno né stata né concordata e tantomeno discussa. Ad alzare ulteriormente la tensione, un corteo non autorizzato di un centinaio di antagonisti di sinistra del gruppo Buriana, contenuto dalle forze di polizia senza violenze. Verso gli agenti sono stati lanciati fumogeni e petardi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E cerimonie per il 25 aprile si sono tenute anche nelle altre città della regione. Sentiamo. Oltre che a Trieste, alla risiera di San Sabba, a Udine, in Piazza della Libertà, a Gorizia con l'alzabandiera solenne in Piazza della Vittoria e a Pordenone, in Piazza Lellero dei Mille. Sono le principali fra le tante cerimonie con le quali oggi in Friuli Venezia Giulia si è celebrato il 78esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Unico rappresentante del governo in regione è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha partecipato alla celebrazione nel capoluogo della destra Tagliamento. Per molti anni è stata una festa di parte, io credo e voglio pensare che non sia più così. È una festa della pacificazione nazionale, una festa di tutti gli italiani che si riconoscono nel tricolore, che vivono in un paese libero e democratico, che vuole rimanere un paese libero e democratico. E la mia presenza oggi qui come ministro non è semplicemente un dovere istituzionale, molto di più. A Udine la festa della liberazione è stata anche l'occasione per il primo intervento pubblico del nuovo sindaco, interrotto più volte dagli applausi degli oltre 3.000 presenti. L'eccezionale esperienza della guerra di liberazione in Friuli ci insegna che la libertà senza partecipazione non esiste, ha detto un emozionato Alberto Felice De Toni, dopo aver ricordato che il Friuli è stata una delle culle della resistenza italiana al nazifascismo e avere sottolineato il ruolo avuto dalle donne, apprezzato troppo poco. Siamo di fronte a sfide epocali, ha concluso, dalle quali dipenderà il mondo che lasciamo ai nostri figli. E per affrontarle abbiamo bisogno di riprendere lo spirito del 25 aprile, fatto di unità, condivisione, senso di comunità, coraggio e fratellanza. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Numerose le reazioni di associazioni e cittadini di fronte al pestaggio di un giovane nordafricano da parte delle forze dell'ordine avvenuto al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca, ma dietro l'episodio, questa è la replica, ci sarebbe stato un tentativo di rivolta. Un giovane a terra, la schiena piagata dai segni delle percosse. Le immagini ritraggono un 27enne marocchino sottoposto a percosse da parte delle forze dell'ordine in servizio al CPR di Gradisca di Sonzo. Il giovane è stato picchiato dagli agenti solo per aver chiesto di parlare col proprio avvocato, la denuncia delle associazioni in difesa dei diritti dei migranti. Ma il fatto, avvenuto il 20 aprile, sarebbe da inserire in un contesto più complesso, spiega il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi. Questo cittadino straniero, assieme alle altre persone che erano nella sua stessa stanza, ha dato fuoco ai materassi di cui dispongono. Gli operatori del centro sono intervenuti per spegnerli come gli idranti, come si fa di solito in questi casi. Loro si sono frapposti per evitare l'utilizzo degli idranti proprio per continuare ad alimentare l'incendio e sono intervenuti gli operatori di polizia. Gli ospiti della stanza in questione hanno utilizzato nei loro confronti delle strutture, pezzi della struttura, quindi strumenti di ferro divelti dal muro e altre armi improprie, e le forze di polizia si sono semplicemente difese. Anche un agente di polizia sarebbe rimasto ferito nella colluttazione con una prognosi di 5 giorni, ma la prefettura respinge l'ipotesi che a innescare la violenza sia stata la richiesta del migrante di contattare il proprio legale. Tutti gli ospiti del CPR di Gradisca sono infatti dotati di cellulare, spiega il prefetto. Rimane da parte delle associazioni la richiesta di chiarezza su quanto accaduto. Don Paolo Iannaccone, presidente del Centro Balducci. Qua non si tratta di accusare nessuno, però credo che la cosa più importante sia quella di cercare di arrivare alla verità dei fatti e quindi di avviare un'inchiesta che porti a capire perché sono successe queste cose. E se i CPR, se gli hotspot sono veramente l'unica risposta che lo Stato, la società è in grado di dare di fronte a delle persone che cercano semplicemente di trovare salvezza a una vita che era perduta nel loro paese. Gradisca di Sonzo, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente ieri nel primo pomeriggio, dopo che la macchina su cui viaggiavano è uscita di strada ed è finita in un fosso in località Santa Sabina, a Sesto al Reghena. Una ragazza è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine, e sempre in elicottero è stato trasportato a Udine anche un altro dei passeggeri in codice giallo. Infine è stato portato in ospedale a Pordenone in ambulanza anche un terzo passeggero in codice verde. È rientrato a Udine il medico friulano impegnato in Sudan in un progetto sanitario di emergency. L'uomo è stato uno degli ultimi italiani a lasciare il paese, ormai teatro di una feroce guerra civile. È rientrato ieri mattina a Udine Gabriele Simeoni, uno degli 83 connazionali evacuati con urgenza dalla capitale del Sudan, Khartoum, con un'operazione ad alto rischio organizzata dalle autorità italiane e completata nel migliore dei modi. Simeoni, medico di 31 anni, al quinto anno di specializzazione in anestesia e componente del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, si trovava in Sudan dallo scorso maggio. Aveva preso servizio nel Salam Center di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum, l'unico ospedale di cardiochirurgia totalmente gratuito in un'area abitata da 300 milioni di persone. Non è stato possibile intervistarlo su richiesta di Emergency per motivi di sicurezza. Sette operatori dell'organizzazione fondata da Gino Strada erano riusciti a lasciare la capitale a bordo dei C-130 dell'aeronautica italiana, che li ha portati in salvo a Gibuti. Sempre con mezzi militari, le persone in fuga dal Khartoum, un centinaio compresi alcuni sudanesi, hanno fatto rientro in Italia. Alcuni operatori di Emergency sono rimasti invece in Sudan, dove la presenza dei medici è indispensabile ora più che mai. Chi è rientrato da Khartoum ha riferito di una situazione drammatica a seguito dell'escalation della guerra civile che ha portato ad una vera e propria emergenza umanitaria. Gabriele Simeoni è ora al sicuro, grazie a Dio, come ha scritto in un messaggio inviato al suo arrivo a Udine. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Udine ci si prepara alla Dunata Nazionale degli Alpini, in programma tra meno di 3 settimane, e anche per la sanità è stato predisposto un piano straordinario. 28 posti letto di degenza ordinaria in più, 6 di terapia intensiva, 6 di semintensiva, 12 posti letto in più negli ospedali fuori Udine. Questi numeri, la risposta del piano sanitario straordinario messo a punto dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale in occasione dell'ormai prossima 94esima adunata degli alpini, che si terrà a Udine dall'11 al 14 maggio. Saranno 15 mezzi di soccorso in più al giorno e un servizio centralizzato presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia. Un impegno reso possibile grazie alla sinergia con gli altri ospedali e a tutto il personale sanitario. Luca Lattuada, direttore Dipartimento Assistenza Ospedaliera, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Noi abbiamo lavorato d'intesa con la Sanità Alpina e con la SORES. In particolare Santa Maria si è occupato del piano ospedaliero. Questo piano prevede un ampliamento dei posti letto al Santa Maria. Accanto a questo, per quanto riguarda sempre la Santa Maria, abbiamo la possibilità di rafforzare, grazie alla disponibilità di medici e infermieri, rafforzare alcuni turni durante le giornate clou della dunata. Oltretutto, lavorando d'intesa con gli ospedali di rete, riusciremo a offrire 10-12 posti letto al giorno in più fra la Tisana, Palmanova, Tolmezzo e San Daniele. Dopodiché, se ci sarà una maxi emergenza, interverremo con le procedure, con i piani da maxi emergenza. Un piano calibrato facendo tesoro delle esperienze delle altre aziende sanitarie dove negli ultimi anni si sono svolte le adunate degli alpini. L'utilizzo del secondo elicottero sanitario per decongestionare il pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Udine, Giovanni Taurbina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Muggia approda in consiglio comunale la decisione della giunta di introdurre la tassa di soggiorno. Se ne discuterà nella seduta di oggi, in particolare del regolamento che prevede diverse tariffe in base alla tipologia della struttura ricettiva, con una specifica disciplina per campeggi e marina. Gli introiti, fa sapere il comune, verranno reinvestiti sulla città in termini di promozione e valorizzazione del territorio. L'obiettivo è partire con l'imposta nella prima settimana di giugno. Assicura il sindaco Polidori, nelle ultime settimane ci siamo confrontati con la categoria e terremo conto delle esigenze evidenziate dagli operatori. Un corso per diventare lobbisti è il laboratorio di public affairs e lobbying che parte a Gorizia ed è organizzato dall'Università di Udine in 8 incontri fino al 18 maggio. La prima lezione è oggi dalle 9 alle 11. Il corso è aperto a tutte le persone interessate e abbiamo chiesto al coordinatore del ciclo dei seminari, il professor Luca Brusati, cosa imparerà chi frequenterà le lezioni. La premessa è l'evoluzione del mestiere del lobbying. In Italia abbiamo in mente il faccendiere e nell'immaginario collettivo il lobbista è un signore un po' losco con la valigetta che rincorre i politici. Nella letteratura accademica si parla di rappresentanza degli interessi, cioè il lobbista, chiamiamolo con un altro nome se non ci piace lobbista, è una persona che informa il decisore politico e che cerca di mettere delle proposte sul tavolo e di proporre e di segnalare il merito di queste proposte. Quindi qualunque associazione di categoria che evidenzia un problema o propone una soluzione a un dirigente regionale, a un assessore piuttosto che a un presidente, sta facendo una funzione di lobbying. E quindi cosa imparano gli studenti? Allora, il meccanismo fondamentale è capire perché dall'altra parte qualcuno dovrebbe darmi attenzione e la questione importante è capire cosa ci può essere di interesse collettivo. Okay? Se io metto delle nuove regole per la sostenibilità della produzione di pioppi in Friuli Venezia Giulia, esempio reale, questo da un lato contribuisce alla sostenibilità ambientale, dall'altro lato però rende il pioppo del Friuli Venezia Giulia competitivo rispetto al pioppo importato dalla Turchia. Allora, la logica classica, aiutatemi, non funziona perché nessun politico, nessun funzionario vuole essere visto come piegato agli interessi del privato. Se io invece dico c'è questa soluzione che è nell'interesse della collettività perché davvero contribuisce alla sostenibilità e poi aiuta anche la mia impresa, a questo punto il mio interlocutore può essere più interessato a questa proposta. Quindi voi insegnate un modo di porre le proposte. Esattamente, queste cose vanno proposte da un lato all'opinione pubblica, dall'altro al decisore, facendo vedere perché in questa iniziativa ci sono degli elementi di interesse per la collettività. A Pordenone sono stati consegnati ieri i premi San Marco nel giorno del patrono a 3 personalità importanti della comunità del Friuli occidentale. Personaggi dell'industria, della ricerca e dello sport, figure di eccellenza della comunità del Friuli occidentale celebrate dal premio San Marco, la festa del patrono di Pordenone, dal 1972 si lega alla cerimonia che quest'anno ha voluto celebrare Michelangelo Agrusti, Roberta Maestro e Mara Martini. Agrusti, oggi presidente di Confindustria Alto Adriatico, navigando tra politica, istituzioni e mondo dell'impresa, ha iniziato la sua carriera da sindaco di Casarsa a 27 anni, allora il più giovane d'Italia. Una storia di servizio alla comunità, iniziata con il sindaco di Casarsa, è che dura tuttora e durerà molto ancora, perché fin quando avrò forza e volontà e idee per fare in modo che la mia comunità abbia la possibilità di servirsi anche di questa mia attività, io ci sarò. Roberta Maestro è la direttrice dell'unità di ricerca di oncogenomica funzionale del CRO di Aviano e autrice di più di 120 pubblicazioni scientifiche. Questi premi non sono mai riconoscimento all'attività di una singola persona, c'è sempre un gruppo dietro, la famiglia che ti sostiene e quindi è un premio che condivido con tutti questi. Mara Martini è campionessa mondiale di sci alpinismo, un esempio di tenacia e motivazione in una disciplina dove è anche fondamentale il rispetto dell'ambiente circostante. È una disciplina molto divertente, sicuramente faticosa, che invito tutti gli appassionati della montagna a fare, quindi provate appunto lo sci alpinismo, sono felice di essere qui per aver portato anche lo sci alpinismo in città. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche a Muggia per la prima volta si rende omaggio a San Marco. Stasera una delegazione del Consiglio regionale del Veneto donerà al comune la bandiera con il leone alato che verrà esposta sulla facciata del municipio. La cerimonia si terrà alle 18:45. Un intervento dello storico Giuseppe Cuscito illustrerà questa appartenenza in municipio e il pubblico vi potrà assistere fino ad esaurimento dei posti. 7:38 minuti, la pagina degli spettacoli. In prima pagina c'è la musica. A Palmanova si apre l'11ª edizione del concorso musicale internazionale Premio UNESCO, una competizione che in 2 settimane porterà nella città stellata oltre 1.100 concorrenti da una ventina di paesi. L'inaugurazione alle 20:45 al Teatro Modena vedrà per la prima volta insieme la Friuli Venezia Giulia Orchestra, che ha la sua sede proprio a Palmanova, e la pianista Chiara Bleve, 16enne vincitrice assoluta del concorso 2022. Nel programma della serata il concerto numero 1, opera 11 di Chopin, che vedrà di scena la giovanissima esecutrice, e nella seconda parte la sinfonia numero 41 di Mozart, l'ultima delle pagine sinfoniche del genio di Salisburgo. A dirigere l'orchestra sarà Paolo Paroni. Il pianista russo Mikhail Kambarov aprirà questa sera a Sacile, alla Fazioli Concert Hall, alle 19:30, la rassegna Winners. Kambarov è più giovane del pur giovane concorso che ha vinto, quello intitolato a Scriabin, che si svolge a Grosseto, una manifestazione nata nel 1999, un anno prima di questo talento, che cominciò a studiare pianoforte all'età di 5 anni e a 8 debuttò in concerto con un'orchestra. L'amato Chopin, di cui qui Kambarov esegue la ballata numero 3 in La bemolle maggiore, è nel programma della serata, che comprende anche musiche di Schumann e Beethoven. La rassegna Winners, organizzata da Fazioli in collaborazione con l'ente regionale teatrale, prevede entro metà settembre altre 7 date con alcuni dei migliori giovani talenti internazionali. La più giovane sarà la sino-canadese Hamilton Lau, classe 2002. Sala gremita e applausi scroscianti ieri sera al Rossetti di Trieste per lo spettacolo con l'icona mondiale della danza Roberto Bolle. Questa sera si replica con la star, c'è anche un danzatore triestino, Thomas Giugovaz. Ecco cosa Bolle dice di lui. Thomas è un ragazzo che sta facendo una bellissima carriera in Spagna e sono contento di averlo, di riportarlo in Italia. È molto bello portare gli italiani che si stanno facendo strada e stanno avendo una bella carriera all'estero, portarli in Italia e dare la possibilità di ballare su palcoscenici prestigiosi del nostro paese. Quindi credo che sia bello per il pubblico vedere anche appunto un concittadino ballare in gala così prestigiosa nella loro città. Si è creato un rapporto particolare con questa città e come trova appunto il pubblico triestino? Qual è la risposta del pubblico? Sì, devo dire che c'è un rapporto speciale ormai con Trieste, perché dopo 6-7 volte veramente si è creato qualcosa di speciale. Sono sempre stato accolto molto bene, con grande entusiasmo, con grande affetto, e sono sempre felice di tornare qui, di ritrovare il calore del pubblico di questa città, la bellezza di questa città, e portare sempre qualche cosa di nuovo. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Altri spettacoli di oggi, sempre a Trieste al Miela, debutta Secondo Riccardo, progetto che il collettivo Artifragili ha realizzato ispirandosi al Riccardo II di Shakespeare. La regia è di Alejandro Bon, il progetto drammaturgico di Davide Rossi, entrambi sul palcoscenico con Romina Colbasso e Veronica Dariol. Cosa significa avere il potere e cosa significa perderlo? Cosa sareste disposti a fare per strapparlo a qualcun altro? E voi, una volta preso il comando, riuscireste a mantenere saldi i vostri principi? Per rispondere a queste domande, il contributo degli spettatori è fondamentale e lo spettacolo sarà al Miela anche domani. Al Tartini di Trieste, per i concerti del Conservatorio, il pianista e compositore Virginio Zoccatelli, già direttore del Conservatorio di Udine, dirigerà la sua nuova partitura, che sarà eseguita da un quintetto formato da docenti e allievi del Tartini, alle 20:30. Tra i film in programma oggi al Far East Film Festival a Udine, si segnala il giapponese Plan 75 di Hayakawa Chie, che sarà proiettato al Teatro Nuovo alle 19:30. Il film è la storia di un piano governativo per arginare l'emergenza dell'anzianità della popolazione, istituendo la possibilità dell'eutanasia appunto dai 75 anni d'età. L'attrice protagonista Bai Shocieco sarà a Udine per ritirare il gelso d'oro alla carriera. Alle 9, sempre al Nuovo, è in programma il taiwanese Untold Her Story di Zero Chu, ambientato durante i 40 anni del cosiddetto terrore bianco, mentre alle 16.50 è la volta del giapponese Egoiste di Matsunaga Deishi, che racconta una storia d'amore omosessuale in Giappone. In chiusura il coreano The Other Child di Kim Jin-young. Al cinema sociale di Gemona si chiude con La Frontiera, film del 1996, il ciclo che la Cineteca del Friuli ha dedicato al regista Franco Giraldi e alla sua trilogia della frontiera. Ospite speciale della serata, che avrà inizio alle 20.45, Graziella Moreale Antonutti, che ricorderà insieme allo storico Carlo Gabershek la figura del marito, l'attore friulano Omero Antonutti, scomparso nel 2019. Fra gli interpreti del film, accanto a Giancarlo Giannini, Raul Bova e Claudia Pandolfi. Lo sport, calcio. Udinese per un mese senza success. L'attaccante nigeriano, autore della terza rete domenica scorsa contro la Cremonese, ha riportato un infortunio muscolare pochi minuti dopo il gol. La lesione al retto femorale lo costringerà ad almeno 4 settimane di stop proprio nello sprint finale dei bianconeri. Alla fine del massimo campionato mancano 7 partite e la più attesa pare adesso quella contro il Napoli martedì sera. La gara al Friuli potrebbe essere quella dello scudetto matematico ai partenopei. Calcio giovanile, partenza lanciata degli azzurri al torneo delle nazioni. Sul campo di Gradisca l'Italia ieri sera ha battuto il Messico 5-0 e questa sera alle 18 ad Aquileia affronterà la Macedonia del Nord. Gli altri risultati della prima giornata: Slovenia, Emirati Arabi Uniti 5-0, Irlanda, Repubblica Ceca 3-1, Portogallo, Norvegia 1-0. Oggi Romania, Slovenia, Arabia Saudita, Irlanda e Norvegia, Austria, tutte alle 17 su campi extraregionali. Ancora calcio, torneo delle regioni. Il Friuli Venezia Giulia Under 19 affronterà oggi in semifinale la Campania dopo aver eliminato ieri pomeriggio il Veneto ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1. La rete dei regionali è stata messa a segno da Zuliani dopo il vantaggio veneto. Risultato finale dopo i tiri dal dischetto 6-5. Eliminata invece la rappresentativa Under 17, superata 2-1 dal Piemonte Valle d'Aosta. Basket, playoff A2 femminile, quarti di finale. La Del Serudine ha perso la gara 2 sul campo del Broni 67-55. Friulana in vantaggio nel primo quarto, equilibrio all'intervallo, poi l'allungo delle padrone di casa per una vittoria con buon margine. La Belle in programma domenica, Udine il Pala Benedetti, e invece oggi nei playout salvezza il Futurosa Trieste giocherà in trasferta contro Ponzano Veneto. La squadra labardata ha perso gara 1 in casa. Pallanuoto, al via la serie della semifinale scudetto femminile tra Trieste e Sisse-Roma. Gara 1 in programma nella piscina delle Capitoline con inizio alle 20. Per la Pallanuoto Trieste, mai arrivata così in alto, è un appuntamento storico. Il pronostico è tutto per il Sisse, che ha chiuso la stagione regolare con 17 vittorie e una sola sconfitta. Le labardate allenate da Paolo Zizza si avvicinano dunque al confronto con l'animo leggero di chi non ha nulla da perdere. Confermate le 13 atlete che nei quarti di finale hanno ottenuto una doppia vittoria contro Rapallo. Nella pallavolo femminile di A2 torna in campo la CDA Talmassons per la gara 2 della semifinale playoff contro l'Itas Trento, che ha vinto in casa la prima partita. Questa sera si gioca la tisana alle 20 con le friulane che cercano di riportare dunque la serie in parità. È la prima volta in questa stagione che la CDA potrà contare sul fattore casalingo contro le trentine, finora sempre affrontate in trasferta. E sarà presentato stasera alle 20.30 il patto digitale tra famiglie, un accordo che ha coinvolto oltre 300 genitori e 110 insegnanti, oltre a 50 scuole della provincia di Udine, e che stabilisce una linea comune su come educare i propri figli all'uso dello smartphone. Il patto ha l'obiettivo di allentare la pressione sociale e commerciale che porta a dare lo smartphone ai bambini a un'età sempre più bassa e fornisce alcune regole chiare. Ce ne parla Dora Tubaro dell'associazione MEC, Media, Educazione e Comunità, che ha lanciato il progetto. Il patto digitale tra famiglie è nato da un'esigenza dei genitori che si trovavano in difficoltà vista la spinta commerciale a cui sono sottoposti sia genitori che bambini. Ecco che abbiamo cercato di capire come aiutare questi genitori e abbiamo capito che l'unico modo era creare una rete di genitori che hanno dei principi comuni. Quindi i cinque principi che abbiamo cercato di individuare sono in sostanza cinque regole. La prima regola è primaria smartphone free, ovvero si chiede ai genitori di non dare lo smartphone di proprietà ai bambini prima della prima media. La seconda regola è app e social in regola con l'età. Allora, sappiamo che in Italia i social sono vietati per legge prima dei 13 anni e secondo gli aspetti appunto ci sono dei motivi molto validi e seri e sono legati anche alla privacy, alla sicurezza personale, agli effetti psicologici. La terza regola è attenzione videogame e contenuti video adatti con l'età. Verificare sempre le età consigliate e controllare anche il tipo di contenuto di serie TV e film guardati dai bambini. La quarta regola è in rete solo se accompagnati. L'ultima regola, la quinta, è limiti chiari su tempi e luoghi. Raccomandiamo sempre di non utilizzare gli smartphone e i dispositivi digitali prima di andare a dormire, per esempio, oppure a tavola. Attenzione anche a non esporre agli schermi per più di 2 ore al giorno i bambini e cercare di definire anche almeno una giornata senza schermi. C'è la tendenza da parte di alcuni genitori, per tenere calmi i propri figli, di dargli lo smartphone così non si agitano. Cosa ne pensate? Questo è un problema molto diffuso perché purtroppo questo avviene anche nei bambini in tenerissima età. Gli schermi non calmano i bambini ma li ipnotizzano. Questo fa sì che i bambini non imparino ad autoregolarsi, non imparino a capire quali sono le emozioni e a regolare le proprie emozioni in base alla situazione. E siamo alla rassegna stampa, cominciamo con il Messaggero Veneto nell'edizione di Udine che apre con una fotonotizia. L'immagine risale allo scorso 12 aprile e ritrae la partigiana Paola Deldini insieme alla premier Giorgia Meloni, usata per presentare le celebrazioni del 25 aprile. Donna straordinaria, questo è il titolo riferito alla partigiana Renata, la quale dice: la festa della liberazione è la festa di tutti. Sempre in prima pagina le cerimonie a Udine con il neosindaco Alberto Felice De Toni che ricorda il padre internato a 20 anni. E cambiando argomento, lo stesso De Toni ha firmato l'ordinanza sulle sanzioni per la adunata degli alpini. Vietato cucinare all'aperto e niente bicchieri di vetro. Le multe andranno da 600 a 3.000 euro. Nell'edizione di Pordenone, apertura invece sulla sanità, con l'appello del vescovo alla politica in occasione della festa del patrono. Inammissibile che ci siano persone che non riescano ad accedere. Spazio anche qui per il 25 aprile, con la freddezza fra l'Ampi e il sindaco Ciriani. E poi il caso del parto in casa, condotto con l'ostetrica al telefono, e lo sfondone a sfondo regionale della campagna Open to Meraviglia, che mette Spilimbergo in provincia di Udine e traduce Forni di Sotto con Öfen Unten. Siamo al piccolo, l'edizione di Trieste apre con le polemiche sulla cerimonia San Sabba, il 25 aprile alla Risiera, con ingressi limitati, questo è il titolo. Poi ci sono le reazioni e le critiche dall'associazione partigiani alla CGIL e la difesa del comune. Sul 25 aprile anche le cronache nazionali e le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: ora e sempre resistenza. Nella politica l'inaugurazione della nuova legislatura in Consiglio regionale e gli attacchi al neo assessore Tognolli in quello comunale a Trieste. Risponderò con il lavoro, replica l'interessato. Ancora dalla cronaca cittadina, la mappa del benessere o del disagio a seconda di punti di vista in base ai redditi medi nei vari rioni. Dall'edizione di Gorizia, Monfalcone richiami in prima pagina per il caso al CPR di Gradisca, migrante picchiato, la questura replica, c'era una rivolta. Dalla cronaca cittadina di Gorizia, in arrivo per l'ATER 7 milioni e mezzo di euro grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e a Monfalcone in evidenza il bando taglia affitti del comune con l'aumento del 15% di sostegni alle fasce più deboli. Sul Gazzettino, apertura dedicata all'allarme stagionali. L'estate alle porte, le prenotazioni sono tante, ma manca il personale per assistere i turisti. Si stimano 1.500 addetti in meno. Nell'edizione di Udine, fotonotizie per l'iniziativa di beneficenza in vista della dunata con i sassi portafortuna per accogliere gli alpini. E poi l'auto capottata a Gemona con un uomo in gravi condizioni e il premio al Malignani come migliore impresa Junior Achievement grazie alla creazione di un concime per le piante. per lo sport, la Tegola per l'Udinese con lo stop di Success e Pafundi. Nell'edizione di Pordenone, che ha la stessa apertura sugli stagionali, fotonotizia sulla polemica per la scritta di epoca fascista e restaurata nel 2022 su una casa a Fontana Fredda. L'Ampi chiede di cancellarla. Si parla anche del piano della polizia locale di Pordenone di mappare le zone dove le case sono a rischio occupazione. E ancora l'incidente a Sesto al Regna, di cui abbiamo parlato, con 4 persone coinvolte e una ragazza in gravi condizioni. Segnaliamo un appuntamento culturale di oggi per il ciclo I manoscritti di Trieste e dell'Istria, organizzato dal Museo Petrarchesco Piccolomineo. Il filologo triestino Roberto Benedetti racconterà all'Istituto Regionale della Cultura Istriana in via Torino il thriller di carattere diplomatico che nel secondo dopoguerra ebbe al centro un manoscritto cinquecentesco contenente l'Africa di Petrarca. Acquistato dalla Biblioteca Civica alla Libreria Antiquaria di Umberto Saba nel 1933, esposto dal regime come vessillo della politica coloniale, sparì durante l'occupazione nazista e poi ricomparve nel 1946 a New York. Fu restituito alla città di Trieste nel 1954. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica in friulano si occuperà della strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Alle 11.20 a volo radente parlerà dei provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese, bonus bebè, dote famiglia, contributi e incentivi. Tra gli altri temi del programma, la transizione ecologica con un progetto che vede capofila in regione i comuni di Tramonti di Sotto e Meduno e infine un progetto dell'Università di Udine sul risparmio energetico e green economy, sostenibilità dei processi produttivi e resilienza territoriale. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Coloni e Riccardo Ostoi, ci ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Sono le 7.54 in punto, vi lasciamo all'Onda Verde regionale, grazie per la vostra attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.